تحب العرق الغربي فلسطين اتبنتك وصل بسفن حرية مغطى برايت بعودتك مكون من جسد تتزوق طلقات اعداء السلام مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة ثورة تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحرة اخي جاوز الظالم من المادة ولن ينتهي الظلمة الا بوحدة الشعب الا برجوع الارض ارضي تناديكم سمعن خدر المعادي بشد على الايادي للايد مساعد محم الموت مناطق بالصوت رافض السكوت وصاحب عين الصوت ها اناديكم اشدوا اياديكم لستم ضعف الضعف هم معاديكم بس الارض كتب مقامة بغفلة تمل خدر بلحظة خرجت ادمع بلحظة الشموع تتخطى الوداع هو الابقى السلام والحب رمز إيماني بالحق رمز إرادة الشعب أحكي في توريو زرعت فينا القوة نزع منها الخوف سلب منها الشر سيف توريو أخي سلام عليك من كل أخ لديك اكتسبته بغزة أحكي في توريو إحنا إلا أخي الشرف نذكرك بكل بيت فلسطيني للأبد أنت فلسطيني فيك أنت فلسطيني وأنا أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض E buonasera a tutti e a tutti, 19:44 minuti primi sui microfoni di Radio Default. Va in onda Radio Cufia, la trasmissione di approfondimento e analisi dalla Palestina occupata, a cura dell'Assemblea di Solidarietà col Popolo Palestinese. E ricordiamo i contatti della radio, di questa grande radio locale a vocazione universale, che quindi si occupa di inceneritore, ma anche di ciò che succede nelle altre parti del mondo. Siete su Radio Default, www.radiodefault.it. Ovviamente il nostro contatto Skype è radio.default. Aggiungeteci, oggi stiamo però in modalità muta da questo punto di vista. E se no abbiamo la nostra pagina Facebook che è Radio Default e a cui ovviamente potete in tutti i momenti iscriverci, fare domande e interventi in diretta. Quindi prima puntata per Radio Cufia, dopo una puntata zero che ha visto un ospite internazionale, Khalil Shaheen del Palestinian Center for Human Rights di Gaza. E ora iniziamo invece proprio con le trasmissioni, quelle serie e toste. Vi ricordiamo che saremo in onda il secondo e il quarto giovedì del mese, sempre intorno alle 7:30, quarto d'ora più, quarto d'ora meno. E trasmissione importante soprattutto visto che in questi giorni pare che la soluzione della situazione palestinese passi per Roma con primi segretari di Stato americani, statunitensi ed ex ministri israeliani che chiacchierano allegramente nella capitale. Ovviamente mancano i palestinesi, ma quello ormai evidentemente non viene considerato nemmeno più un problema. Quindi io ho parlato anche troppo, facciamo parlare altre voci e buon ascolto a tutte e a tutti. Allora, un saluto agli ascoltatori, insomma, come ha accennato poco fa il compagno, avete capito, non siamo professionisti della questione palestinese, siamo semplicemente dei compagni che sono ormai da tantissimi anni attivi sul territorio dei Castelli Romani e attivi proprio sul terreno della solidarietà con il popolo palestinese. Quindi sono ormai è tantissimo tempo che organizziamo assemblee dentro le scuole, ospitalità per delegazioni palestinesi che sono venuti anche qui nei Castelli Romani, impegnati nella raccolta di fondi essenzialmente per la sanità palestinese, ma anche nella campagna nazionale del boicottaggio, del disinvestimento e sanzioni. Quindi, diciamo, come prima trasmissione, cioè vorremmo, insomma, ecco, capire che il tipo di taglio che vorremmo dare a questo tipo di trasmissioni. Chiaramente quello che ci interessa è proprio perché pensiamo che la questione palestinese sia uno dei nodi irrisolti oggi della nostra epoca. Cercheremo di mettere in evidenza tutti gli aspetti storico-politici, cioè quindi una parte delle trasmissioni dedicheremo proprio all'analisi storica di come si è configurata agli inizi del Novecento la questione palestinese, anche perché ci interessa combattere anche quella che noi definiamo la propaganda sionista, che è una delle armi fondamentali. Cioè sbagliamo, io credo, quando pensiamo che la forza dello Stato di Israele stia soltanto nella crudeltà dell'esercito, nella repressione quotidiana dei palestinesi. Credo che una delle armi maggiori sia proprio quello della propaganda. Chiaramente noi con questo minimo strumento della radio cercheremo anche di opporci a questo tipo, ma anche io credo che sia necessario pubblicizzare tutti gli aspetti della lotta e della resistenza che da oltre 60 anni oppongono il popolo palestinese appunto all'esercito di Israele. Questo è un dato fondamentale, perché la resistenza che c'è da oltre 60 anni è anche una speranza per noi. Quindi una parte, diciamo, della trasmissione che io credo che ci vedrà insieme ogni secondo giovedì e quarto giovedì del mese, ecco, si occuperà anche di questi aspetti, di un notiziario che parta dai territori occupati palestinesi, ma anche, insomma, dalle mille e mille iniziative che ci sono sia nell'area dei Castelli Romani, nella metropoli romana e anche a livello nazionale. Mi è capitato, insomma, proprio per dare un quadro, una cosa semplice che ho trovato su Infobar, che è un report settimanale sulle violazioni israeliane fatto dal Palestinian Center for Human Rights. Questo, ecco, io volevo leggerlo per dare un po' anche a chi ci ascolta. È vero che la web radio ci permette di andare molto molto lontano, però è anche vero che è insediata qui nel territorio dei Castelli Romani e c'è una buona parte di ascolto di ragazzi giovani. Leggo un attimo, ecco, questo report brevemente, ecco, dice quello che è successo nel periodo di una settimana, quello che è successo nel periodo che va dal 25 aprile al 1 maggio di quest'anno. Le forze israeliane continuano ad attaccare sistematicamente i civili e le proprietà palestinesi nei territori occupati. Israele continua ad aprire il fuoco nelle aree di confine della striscia di Gaza. Un bambino è stato ferito a nord di Gaza. Le forze israeliane hanno ferito 4 civili, incluso un bambino, mentre offrivano protezione ai coloni israeliani durante le operazioni di attacco. Israele continua a reprimere con violenza eccessiva i dimostranti in Cisgiordania. 3 manifestanti sono stati feriti durante le dimostrazioni pacifiche contro la costruzione del muro di annessione e gli insediamenti illegali. Le forze israeliane hanno condotto 63 incursioni contro la comunità palestinese di Cisgiordania e 3 incursioni limitate nella striscia di Gaza. 32 civili palestinesi, inclusi 7 bambini, sono stati arrestati in Cisgiordania. Israele continua a imporre una chiusura totale dei territori palestinesi occupati e a isolare la striscia di Gaza dal mondo esterno. Le forze israeliane hanno chiuso la frontiera tra la striscia di Gaza e Israele per 3 giorni e hanno installato dozzine di posti di blocco in Cisgiordania. 8 civili palestinesi, inclusi 2 bambini, sono stati arrestati ai posti di blocco. Israele sta cercando di creare un territorio composto a maggioranza da ebrei nella Gerusalemme est occupata. 3 case del villaggio di Haltur e intorno a Haltauri sono state demolite. Le forze israeliane continuano a sostenere gli insediamenti illegali in Cisgiordania e i coloni israeliani continuano ad attaccare i civili e le proprietà palestinese. Due fattorie e un pozzo sono stati demoliti e altri avvisi di demolizione sono stati emanati in Cisgiordania. I coloni hanno condotto una serie di violenti attacchi contro i civili palestinesi e hanno incendiato diversi ettari di terreni agricoli nel villaggio di Deir Jair, vicino a Ramallah. Un pescatore è stato ferito a Rafa, nel sud della striscia di Gaza. Le forze navali israeliane non cessano di colpire i pescatori palestinesi in mare, costringendo i pescherecci palestinesi a navigare nel limite di 3 miglia nautiche. Ecco, questo è semplicemente un report, come dicevo prima, del Palestinian Center for Human Rights, che si riferisce a quello che praticamente è accaduto tra il 25 aprile e il 1 maggio. Ma io credo che questo qui poi fondamentalmente è quello che succede da 60 anni a questa parte di occupazione israeliana. E cioè, io che penso che il compito di questa radio, ecco, sia fare in modo che tutto questo non solo non passi sotto silenzio, ma che non ci sia neanche una assuefazione a questo tipo, cioè che questo qui metta, come dire, un risveglio sia delle coscienze, ma anche di mobilitazione costante e continua di informazione in tutti i nostri territori. Vabbè, io per ora, ecco, mi fermo qui e lascio la parola a un compagno che... compagno, di mandare uno stacco musicale. Scusate, qui oggi è il primo giorno, il tipo di trasmissioni sono ancora molto artigianali, noi puntiamo pure a diventare un po' più professionali. Uno stacco musicale e poi ci sarà un compagno che inizierà un po' a parlare della questione palestinese. Noi auspichiamo che questo qui possa interessare e che ci siano, insomma, telefonate anche di critica o di sostegno a quello che vogliamo dire. في فانوس انورها وارجيك انه في كلام غير الحب لا تستعملها او لا تكتبها حبيبي لسه ما زلت اغير ولا الابداع بطل كلمه تحتمها ربار بعد احنا والاهداء فهرسنا لسان سيفنا والبيت اكيد فرصنا وانت هدفنا وانا ناديني الهداف اذا انصبت مش تروح تنادي الاسعاف احنا من خلال بكر جاد من غير كهرباء مين اتاثرت تعال اوصف لك الطبخه مثل ساندي باب نوصل كل بلاد وانا عندي باب كلمه سرين افتح ويبان وين لك هالكلمه انا وعلي بابا اخوان اوه طل الصباح روحنا عملنا لازمه ما الها معنى بس علشان شعبنا يسمعنا عملنا لازمه ما الها معنى بس علشان شعبنا يسمعنا يسترونا واقف نفس الكلام يضلوا لف على بعضه بيدوخوا بوه عملت ربطت بسطر ورا كتبت رسمت برأسه حتى عرفت عشان بسطنا الأعلى عشانه يسمع قدروا تنشونا أو تسكتونا ولو قررتوا إنكم ما تشتونا ولا إيش يعني كلب نجيب رقاصة بنقعد نصبر وبنبيع ببساطة عملنا لازمة ما إلها معنى بس علشان شعبنا يسمعنا كونا Buonasera a tutti, come dicevamo faremo durante queste trasmissioni anche dei brevi approfondimenti storici. Naturalmente non faremo né l'enciclopedia della storia della Palestina né la cronologia della storia della Palestina, e soprattutto è importante per chi ci ascolta, non interroghiamo alla fine. Cercheremo soltanto di mettere un po' a fuoco quelli che sono i principali punti della propaganda sionista per quanto riguarda la storia della Palestina, sviscerarli, andare a evidenziare le bugie, le cose false che vengono dette in merito. Cominceremo proprio dalla storia antichissima, perché è importante capire essenzialmente quella che era nell'antichità la Palestina e come ci si muoveva all'interno della Palestina. La Palestina è una striscia di terra che si trova nel Mediterraneo, considerate di fronte all'isola di Cipro, confina con l'Egitto, confina con la Siria, confina con la Giordania. Era la strada che usavano gli egiziani per andare in Turchia e i persiani per andare in Egitto, per avere accesso al Mediterraneo. È avuto, come l'Italia, è stata al centro del Mediterraneo il traffico di dei greci, degli spagnoli, dei francesi, dai normanni agli arabi. In Italia abbiamo avuto il passaggio di tutti, da Attila addirittura dai mongoli in poi. Altrettanto è successo naturalmente nell'antichità in Palestina. Considerate che esiste oggi un problema proprio storico e archeologico rispetto al modo che hanno i sionisti di studiare, di scavare, di fare archeologia, di fare studi in Palestina. Se voi leggete i testi di base di cui si studia archeologia all'università, viene citata l'archeologia sionista come un modo non scientifico e sbagliato di fare storia, di fare archeologia, per cui si va a fare uno scavo e si parte da un presupposto e si cerca di adattare quello che si trova nello scavo al presupposto di partenza, alla teoria con cui si è partiti a fare lo scavo. Come dicevamo, anticamente in Palestina ci sono stati tutta una lunga serie di civiltà e tutta una lunga serie di popolazioni e di imperi. Quello che ci interessa a noi è andare a verificare se effettivamente sia esistita in Palestina nel corso della sua storia, nel corso dei suoi secoli, una presenza ebraica importante, dominante e unica in Palestina. Cominciamo col dire che quelli che oggi vengono chiamati comunemente gli ebrei in realtà non sono un popolo. Anticamente esistevano tutta una serie di popolazioni di tipo semitico, alcune stanziali, alcune nomadi, prevalentemente nomadi. Si trattava di clan. Pensate un po' alla struttura del clan scozzese, dove c'è un capo famiglia con i figli e i figli dei figli che si muovono in gruppo, sono pastori che seguono la transumanza delle pecore e che, avendo un forte eccesso di manodopera, forniscono manodopera specializzata, artigiani specializzati, quindi carpentieri, quindi muratori, quindi i fabbri, ai grossi imperi che in questo tipo di territorio hanno bisogno di manodopera per realizzare le grandi opere. Voi pensate ai giardini pensili di Babilonia, alle piramidi d'Egitto, è impensabile che una struttura, non so se qualcuno di voi ha mai visto la piramide di Cheope, però una struttura perfetta di quelle dimensioni sia stata fatta da schiavi analfabeti che coltivavano la terra e quando ci avevano tempo libero si dedicavano alla costruzione delle piramidi. Sappiamo ormai storicamente che questo non è vero, che tutta questa serie di costruzioni sono state fatte da popolazioni specializzate in questo tipo di costruzioni, che erano nomadi, quindi non avevano una propria patria, si muovevano all'interno di questi imperi fornendo manodopera specializzata, manodopera che avevano in eccesso, perché voi considerate una famiglia, un clan tipico dell'epoca, 200, 300, 400 persone con un migliaio di pecore, non è che stanno, che gestiscono una pecora ogni due persone, ci sono 4-5 membri della famiglia che gestiscono il gregge, il resto è manodopera libera, non sono legati a un terreno, non sono legati ai cicli della natura come gli agricoltori, non sono legati alla transumanza degli animali come i cacciatori, forniscono manodopera specializzata. Tra queste tribù ce n'erano alcune che per le loro particolari caratteristiche di tipo religioso, di tipo politico, sono riuscite a mantenersi unite e a non diluirsi all'interno delle varie popolazioni che andavano a visitare, perché voi immaginate una tribù che arriva in Mesopotamia, costruisce Babilonia, sta lì 50 anni, 4-5 generazioni, tende ad assimilarsi con le popolazioni, a sparire come unicità e a perdere quelle che sono le sue particolari caratteristiche. Sappiamo invece che questo non è accaduto per alcune di queste tribù. Non è accaduto perché si sono strutturate dal punto di vista politico e dal punto di vista religioso proprio per evitare l'assimilazione nei posti dove si muovevano per prestare la loro manodopera. E la caratteristica politica era il fatto di avere questo patriarca monocratico che dominava l'intero clan e l'intera tribù, sia nei rapporti con le altre tribù, sia nei rapporti dei propri membri, e così come erano strutturati in terra, si strutturavano in cielo. Avevano quindi una religione di tipo monoteistico, una cosa estremamente poco diffusa nell'antichità, che gli impediva proprio di essere assimilati dagli altri popoli con i quali venivano in contatto. Pensate all'impero romano, conquistava un paese, aggiungeva i dei del posto che trovava nell'Olimpo degli dei, ognuno si continuava con la sua religione, si poteva essere un migliore modo per i romani per occuparli, ma per chi veniva occupato aveva meno problemi per essere assimilato. Avere invece un tipo di struttura con un unico capo politico e un unico dio che non accetta l'esistenza degli altri dei, che mette in discussione gli altri dei, che è superiore a tutti gli altri dei, chiaramente crea uno stato di conflitto, uno stato di separazione con le popolazioni con cui si viene incontro, e questo impedisce l'assimilazione, serve per mantenere unito il gruppo. Oltre a questo c'erano specifici dettati di tipo politico e religioso, quali per esempio la norma di non mischiare il sangue, che impedivano i matrimoni misti sia all'interno delle varie tribù, sia soprattutto con le popolazioni pagane con cui si veniva in contatto. Tutto questo faceva sì che questi gruppi rimanessero un patrimonio in mano dei capi famiglia da gestire, da vendere come manodopera ai vari imperi, senza che si andassero ad assimilare all'interno degli altri imperi. Come dicevamo prima, questa è la situazione in cui rientra. Tra queste tribù c'erano chiaramente le tribù delle popolazioni che noi chiamiamo ebrei, che la Bibbia ci narra, e da cui poi si muovevano in questi territori, senza però mai in tutto questo tempo arrivare a creare un loro stato o a creare una loro struttura statale indipendente e nazionale, perché non ne avevano bisogno, proprio perché popolazioni nomadi che seguivano la richiesta di manodopera dei grossi imperi o la necessità di emigrare delle pecore o delle greggi dei quali erano pastori. Sono esistiti nell'antichità importanti città, stato, importanti regni di tipo semitico, l'esempio più lampante è quello di Ebla in Siria, che nulla però hanno a che vedere con quelli che noi oggi consideriamo gli ebrei. L'esempio di Ebla è un esempio molto lampante di come gli israeliani fanno la storia, di come gli israeliani fanno l'archeologia. Noi la conosciamo molto bene perché la Ebla è stata scoperta da un gruppo di archeologi italiani, dal professore Mathieu. Si trova nell'attuale territorio della Siria e vengono trovate tutta una serie di tavolette antichissime scritte nella più antica lingua semitica conosciuta. Cosa importante, sono scritte in lingua semitica, ma sono scritte con caratteri cuneiformi, il che fa pensare a una struttura culturale preesistente di tipo assiro-babilonese, perché la scrittura con cui sono scritte è una scrittura assiro-babilonese. Quando viene ritrovata questa città e quando vengono ritrovate queste tavolette, scoppia un enorme caso diplomatico, perché gli israeliani vogliono mettere immediatamente mano su queste tavolette. Per loro sono la dimostrazione storica dell'esistenza di un impero ebraico antichissimo in Medio Oriente, ai confini con la Palestina, che possa giustificare l'attuale stato di Israele. Si crea una guerra diplomatica enorme tra gli studiosi italiani che sono lì e stanno traducendo con fatica queste tavolette. Si rischia addirittura il blitz dell'esercito italiano per sequestrare le tavolette e portarle in Israele. Alla fine vengono scannerizzate, messe su internet, vengono tradotte e si scopre che la città di Ebla è sì una città costruita dalla popolazione semitica, ma che sono pagani, addirittura un tipo di paganismo molto particolare, per cui hanno non solo numerosi dei, ma a ogni dio di tipo maschile c'è un equivalente identico di tipo femminile, per cui se c'è il dio Cora dell'acqua, esiste una dea madre dell'acqua che è il suo alter ego femminile. Quindi nulla di più lontano da quello che è la cultura ebraica, nulla di più lontano di quello che era la struttura politico o religiosa monoteista di quello che era delle popolazioni ebraiche. Sappiamo che gli ebrei non sono originari della Palestina, perché appunto le più antiche lingue semitiche sono di tipo assiro-babilonesi, perché ci sono degli editti degli imperatori babilonesi e degli imperatori persiani che impongono agli ebrei di tornare a prestare manodopera lì e di lasciare gli altri imperi dove si sono spostati. E sappiamo anche dalla Bibbia che ci racconta che col diluvio universale di Mosè, l'arca di Noè si ferma sul monte Ararat, che è in Turchia, e lì si stanziano, e ci sono numerosi riscontri archeologici dell'esistenza di città semitiche e addirittura lì sì di piccole monarchie, piccoli imperi di tipo ebraico, però stiamo parlando dell'altopiano dell'Anatolia, nulla a che vedere con la Palestina. Siamo in Turchia, siamo nella zona della Turchia al confine con l'Iraq, quindi completamente in una zona diversa da quella della Palestina o del Medio Oriente. La Bibbia ci dice, e anche su questo abbiamo dei riscontri, che gli ebrei arrivano in Palestina per la prima volta provenienti dall'Egitto, portati dall'Egitto da Mosè. La permanenza degli ebrei in Egitto è storicamente accertata, è stata molto, molto lunga, molto importante, tant'è che noi abbiamo una corrispondenza storica della mutazione della forma religiosa degli egiziani nel periodo della forte permanenza delle tribù ebree in Egitto, perché abbiamo l'Egitto, il faraone egiziano del tempo, che porta piano piano la religione politeista dell'Egitto verso una forma di quasi monoteismo. Il dio del sole, il dio Ra, diventa quasi un dio superiore tipo Giove per i greci, quasi un dio unico, e perdono di importanza e di rappresentanza tutti gli altri dei e le altre divinità egiziane. Questo ci dimostra, dal punto di vista archeologico e dal punto di vista storico, che non solo la permanenza è stata molto lunga, ma che c'è stata anche una forma di assimilazione e che c'è stata anche una forma di esportazione della cultura e della religione degli ebrei nei confronti di quelle che erano le popolazioni egiziane. Erano in ogni caso lì a fornire manodopera per la costruzione delle grandi necessarie all'impero egiziano. La storia ci dice che ci sono tutta una serie di anni di carestia, che la Bibbia ci dà come le sette piaghe dell'Egitto. La storia ci dice che è un lungo periodo di carestia. Chiaramente un impero, un paese in un grande periodo di carestia mette fine alle grandi opere pubbliche, perché non ha di che pagare operai stipendiati per fare una piramide quando c'è il tuo popolo che si muore di fame. E quindi effettivamente una parte di queste popolazioni, che sono popolazioni nomadi, che non sono egiziani, partono dall'Egitto, una parte va nel Basso Egitto verso il Sudan, e sono quelli che saranno poi gli antisignani, degli ebrei cosiddetti falasce, di origine sudanese, di origine somala, che verranno poi deportati in Israele più tardi. Un'altra effettivamente via mare, considerate via terra, considerate che non c'era il canale di Suez all'epoca, quindi non era necessario aprire il Mar Rosso, bastava mantenersi sulla spiaggia. Arrivano in Palestina per la prima volta appunto con Mosè, e lì trovano i Filistei. E considerate che Filistei, Palestina, Filistin, il nome viene proprio da terra dei Filistei. Adesso mandiamo un altro stacco musicale e poi proseguiamo con l'antica storia della Palestina più tardi. احنا عايشين ورا سجون البنود اللي سجنين انا ما يتغير مش حاسين ورا نور الا سياج منها احنا شايفين سما لونا ازرق غير ما ابيض بالنص نجمه زكراك انت بغيره بس انا صامد عايش متفائل ما تعزل مني الامل بيجي ضار فاصل السور يدور انا مربوط فلسطين كجنين لحبل الطابور بالارض جذور شجر زيتون ضل تولد وتجدد وتجدد قصور كل غصن ممدود للسلام كل غصن معروض لاحتلال ما يريد استسلام طب ليه؟ ليه انا اللي ما اله حريه لاني انا رافض اني اعيش بعبوديه وين ما رحت اشوف حدود السجن الانساني لاطفال العالم حره وانا مالي حريه وين ما رحت اشوف حدود السجن الانساني لاطفال العالم حره وانا مالي حريه احنا بندور على السلام بين قوات حرب رواد حرب معهم صرنا اولاد حرب نطلب الحرية من السجون المعنية انه نكون معيون اللي دايما معمية من التفرج اطفال العالم الحرة دايما ضل بتدحرج للحياة المرة قوانا شاطرين بس بتبهرج الكلام كلهم ماخدين تخرج بتعرج الاوطان واحنا نستعمل قوة عشان الضعف بنتحمل الموت عشان الحياة تعملنا بلطف ومش بعسف للحياة انولدنا ولما لقيناها مش بايدينا جربنا نخدها فمتنا وكل اللي طلبناه كان نفس واللي ضحينا عشانه برضه كان نفس انت قولي ليش اطفال العالم حرة وانا مالي انا مالي حرية وين ما رحت اشوف حدود السجن الانساني لاطفال العالم حرة وانا مالي حرية وين ما رحت اشوف حدود السجن الانساني لاطفال العالم حرة وانا مالي حرية انا بتسعى عيش عروكة بيت وانا بديش اموت هاجرم وانا لساتي شايف الاحتلال مهدد ايده مش للسلام مش مساواة بل تيهديني حبل مشنقة كمان مش زرع وجدار اللي فاصل بيني وبين حالي ما بخليني اشوف ضو السماء ام الواحد وخمسين ولاية تربي كمان ولاية اللي تربى على حساب غيرها متأثرة من امها الهنود الحرة متأملة تمحينا تغسل دماغنا تقولنا انه المشكلة هي احنا بس حتى الجيوش العالم كلها ما تقدر على الحرية وين ما رح بنشوف حدود السجن الإنساني لأطفال العالم حرة وانا مالي حرية وين ما رح بنشوف حدود السجن الإنساني لأطفال العالم حرة وانا مالي حرية وين ما رح بنشوف حدود السجن الإنساني لأطفال العالم حرة وانا مالي حرية وينتش التاريخ من جذوره وينتش الفكر من الأعماق نريد جيلا قادما مختلف الملامح لا يغفر الأخطاء لا يسامح لا ينحني لا يعرف النفاق نريد جيلا رائدا Bene, riprendiamo il breve racconto dell'antica storia della Palestina e chiaramente del Medio Oriente, perché sono paesi tutti le cui storie sono tutte intrecciate l'une con le altre. Dicevamo, la Bibbia ci racconta e la storia ci dà dei riscontri appunto sia archeologici che appunto documentali dell'arrivo per la prima volta degli ebrei in Palestina provenienti dall'Egitto tramite guidati da Mosè. Arrivano dall'Egitto nel Sinai, e incontrano appunto le popolazioni che già vivevano lì, quindi era già la terra e la patria di qualcuno, in particolare dei Filistei. Dal Filistei, Palestine, viene il termine che noi usiamo in Occidente come Palestina, e gli arabi la chiamano Filistine proprio perché era la terra dei Filistei, e arrivano e fanno guerra alle popolazioni che trovano. La Bibbia ci parla tranquillamente di guerre, di massacri, addirittura la Bibbia ci dice che gli ebrei vincono la guerra contro i Filistei, perché Mosè riesce a ingannare il suo Dio facendogli credere di essere in preghiera quando non lo era. È un episodio molto carino questo della Bibbia. Ci dice che c'è una importante battaglia e Mosè ha le braccia alzate al cielo in segno di preghiera, si stanca, non ce la fa, e nel momento in cui abbassa le braccia le sorti della battaglia cambiano. Allora gli mettono due forcine di legno sotto le braccia per tenergli le braccia artificialmente alzate in preghiera verso il cielo, e quindi la battaglia si conclude in maniera positiva per gli ebrei. Secondo alcuni storici questo è un aneddoto che usano nella Bibbia per dire che in realtà la vittoria di queste popolazioni, che come abbiamo detto sono costituite da pastori ma soprattutto da artigiani, da fabbri, da persone con un livello tecnologico superiore rispetto alle popolazioni che avevano, che era stato proprio un artificio tecnologico a permettere agli ebrei di vincere questa battaglia. Si distribuiscono nel territorio appunto assiro-palestinese e per alcuni versi anche nelle zone al confine con il Libano. In questo momento viene non solo l'Egitto ma tutta la zona da anni di carestia, quindi non c'è una richiesta di manodopera, non c'è un altro posto dove andare per poter lavorare, e considerare che all'epoca spostarsi dalla Palestina per arrivare nell'impero ittita o nell'impero assiro-babilonese non è una cosa che se prende il Frecciarossa e ci stai dopo tre ore o prendi l'aereo. Sono percorsi molto lunghi, le pecore non è che fanno 100 km all'ora, quindi sono delle situazioni piuttosto lunghe. Si stanziano lì chiaramente per raccogliere le idee, per riposarsi, per tutta una serie di cose. E qui c'è quello che storicamente ci sono i due monarchie di tipo ebraico presenti in Palestina. Quindi già all'epoca gli ebrei arrivano in Palestina ma non occupano tutta la Palestina, non trasformano la Palestina in uno stato ebraico, e soprattutto l'impero più importante, il regno più importante di tipo ebraico che c'è in Palestina, che è quello di Re Salomone, non può essere assolutamente considerato come un precedente storico dell'attuale stato sionista, proprio perché Salomone era ebreo da parte di padre, non da parte di madre. La madre di Salomone era pagana e la Bibbia ci dice che lui ammazzava i vitelli agli dei della madre, quindi non solo il suo stato non era uno stato monocratico ebraico che discriminava la popolazione non ebraica, che imponeva i diritti soltanto agli ebrei, ma lui stesso faceva dei riti pagani. E considerate l'assurdo che questo regno di Re Salomone, che gli israeliani considerano il precedente storico del loro stato, se oggi gli scienziati israeliani trovano la tomba di Re Salomone, estraggono il DNA e lo clonano, non possono attribuirgli la cittadinanza dello Stato di Israele, perché per essere cittadino a pieno titolo e a pieno diritto dello Stato di Israele devi essere figlio di una donna ebrea, e Salomone era figlio di una donna pagana. Questo per far capire quanto la propaganda religiosa, la propaganda politica, perché il sionismo è l'ideale alla base della creazione dello Stato di Israele odierno, è un ideale politico, vanno a mistificare sistematicamente tutta quella che è la storia, tutte quelle che sono le tradizioni, tutte quelle che sono gli usi e i costumi del posto, per adattarli alla loro idea preconcetta di storia e di situazione. Noi sappiamo appunto che arrivano lì, si stabiliscono, una parte continuano la loro migrazione, alcuni appunto verso la Turchia e verso i Balcani, dove noi avremmo storicamente da quel momento in poi sempre delle grosse presenze di comunità ebraiche, ebraiche e anche alcuni piccoli regni di tipo ebraico. Una parte appunto si muovono verso la Siria, verso l'impero persiano, l'impero assiro-babilonese, e altri restano sul posto. Ma storicamente il regno ebraico più lungo che c'è in Palestina prima della creazione dello Stato di Israele è un regno che dura 28 anni. La dominazione romana della Palestina è molto più lunga. Avremmo molto più diritto noi romani a ricreare lo Stato romanico in Palestina di quanto storicamente ce lo abbiano gli ebrei. Addirittura tempo fa mi facevano una battuta un amico, dice: è durata di più la monocrazia di Sodoma e Gomorra in Palestina che quella ebraica, quindi avrebbero più diritto i gay del mondo a creare uno Stato esclusivamente gay in Palestina che gli ebrei, proprio per la durata storico insignificante di questi regni e per il fatto che nessuno di questi regni è caratterizzato in maniera monocratica e così religiosa di come lo è l'attuale Stato palestinese. Anche leggendo la Bibbia noi vediamo che ai tempi di Gesù c'erano vari gruppi di ebrei, spesso anche in guerra fra di loro, e che i pagani vivevano con pari diritti, con libertà di culto, con le loro strutture politiche e associative in Palestina senza nessun problema. Questo oggi non è possibile. Il problema principale del conflitto arabo-israeliano è il fatto che Israele si considera, in quanto Stato sionista, in quanto Stato ebraico, uno Stato dove per avere dei diritti, per essere cittadini a pieno titolo, per avere diritti civili, politici, possono avere appunto soltanto persone che possono vantare la discendenza da una madre ebrea. E questa è una cosa unica nel mondo, in nessun altro paese del mondo succede una cosa del genere. Noi possiamo prendere l'esempio dell'Iran, che sicuramente non è un paese democratico, sicuramente non è un paese laico, però se io nasco da ateo, quale sono? In Iran non è che mi viene negata la cittadinanza o mi vengono negati i miei diritti o mi viene data una quantità di acqua minore perché non sono musulmano. Questo non per dire che l'Iran sia lo Stato ideale, per carità, però per capire qual è la natura particolare dello Stato odierno di Israele, che non ha nessun precedente storico in quella che è la storia della Palestina, soprattutto in quello che è la storia antica della Palestina, perché un regno ebraico che occupi tutta la Palestina e che sia discriminante nei confronti dei non ebrei in Palestina non c'è mai stato, non c'è stato neanche appunto ai tempi di Mosè e nemmeno ai tempi di Re Salomone, che appunto, come ripeto, era di famiglia mista, mamma pagana e padre ebreo, e che non aveva nessuna difficoltà lui stesso a sacrificare dei vitelli agli dei pagani della madre. Quindi in Palestina ci sono sempre state una serie numerosissima di comunità, una serie numerosissime di etnie, una serie numerosissima di religioni, di culti religiosi, di regni più o meno di una civiltà sull'altra, di un'etnia sull'altra, ma mai una struttura storico-politica esclusiva ed escludente nei confronti degli altri. Dall'Australopiteco palestinensis a oggi, prima del 47, uno Stato con questo tipo di caratteristica razziale, politica e religiosa non c'è mai stato. Nessuno può vantare un precedente storico di una cosa del genere. Questo è molto importante da capirlo, perché quando si riconosce appunto al Regno di Salomone o altri precedenti storici il fatto che lo Stato di Israele voglia ripristinare quella situazione, in realtà si mente sapendo di mentire. Benissimo, andiamo con un altro stacco musicale fra qualche minuto, non vi preoccupate. جاهز سهيل؟ يلا سهر مين؟ لا لا سهيل سهيل سهيل سهيل اه بردغات يلا يلا يلا يا رعد استنى يلا يلا بسرعة بسرعة يلا يلا راحت يلا صحيني أنا مش يلا صحيني أنا مش جاهز سهيل يلا بس صحيني أنا مش نجم في ام تي في بس أنا نجم في يوتيوب أنا نجم وما في هدم بيوت مش فارق ولي بود أنا بدي ولي لود أنا نجم أنا نجم أنا نجم This is the roughest of his bomba glad bad man out of Haifa Bruno Cruel Adira Bishamadan Asma بدهم ياني اتقدى اتقيّى بدهم من وراءتي تتوضى تتبيّى يقولوا هذا اسم هذا كسب نجم وسل وانا رافض انه رسالتي تتروّى قد ما الباقي حاله ناسي ناس وملهي بمواله قد عاش اللي متابع حارته وسامع اهل بلاده وبلاده في باله ازرعها ارويها فتح عينه غمض عينه لما هاي الارض زينة نارك بكره بتنقيها ازرعها ارويها فتح عينه غمض عينه لما هاي الارض زينة نارك بكره بتلاقيها ارفعها عليها عشجرة عش للشعر خلي الكلمة تحلق طيري رفرف فوق المحبينا ارفعها عليها عشجرة عش للشعر خلي الكلمة تحلق طيري رفرف فوق المحبينا عليه بدهن امي بلاستيكية بحكي ايش ما بيحكوا بيمشي كيف ما بيمشوا وانا هي اللي رافضة المسرحية ليش باقي كلبائية مش باقي كلبائية عليه بدهن امي بلاستيكية بحكي تحكي ايش ما بيحكوا تمشي كيف ما بيمشوا وانا هي اللي رافضة المسرحية مش باقي كلبائية مش باقي كلبائية Quanto riguarda la storia antica e moderna e contemporanea che poi faremo perché arriveremo ai giorni nostri della Palestina, Per oggi la finiamo qui, non vogliamo torturarvi con questo. Passo quindi la parola a un altro compagno che ci parlerà invece delle iniziative, delle cose che ci sono oggi, contemporanee a noi, riguardo appunto alla Palestina. Allora, 23 aprile, il detenuto palestinese Samir Issawi ha sospeso lo sciopero della fame contro la detenzione amministrativa che ha notevolmente deteriorato la sua salute. Arrestato nel luglio scorso con l'accusa di aver violato le condizioni del suo rilascio, per 8 mesi ha rifiutato il cibo. L'amministrazione carceraria sionista, che gli aveva proposto la libertà in cambio della sua deportazione nella striscia di Gaza, ha dovuto capitolare ed ha consentito a rilasciarlo il prossimo 23 dicembre nel suo villaggio natio, ad Issawi, a nord di Gerusalemme. Nella lettera in cui annuncia il suo rilascio, Issawi dichiara: «Non dimentico di salutare i combattenti sconosciuti di questa battaglia, i media, i giornali e le TV, che hanno giocato un ruolo essenziale in questa grande vittoria. Saluto tutti quelli che mi hanno sostenuto, i poeti, gli scrittori e i cantanti che hanno portato questa battaglia in ogni angolo del mondo e hanno avuto un ruolo importante quanto gli altri. Ora chiedo che la lotta del movimento popolare continui su tutti i fronti, al fine di combattere per i nostri prigionieri politici. Chiedo anche la continuazione della mobilitazione politica e diplomatica per portare a livello internazionale la questione dei detenuti e per giungere in fronte alla Corte Penale Internazionale perché giudichi l'occupazione secondo il diritto internazionale per i crimini che perpetra contro il popolo palestinese. Saluto voi e la vostra resistenza e spero di incontrarvi presto e di poter celebrare la liberazione della Palestina con la Santa Gerusalemme come capitale. Ci vedremo presto nella Città Santa, se Dio vorrà». Il centro studi Asra Falastin, prigionieri della Palestina, rivela che nel solo mese di aprile le forze di occupazione sioniste hanno condotto più di 300 assalti contro i palestinesi e che hanno portato a 360 arresti. La maggior parte è avvenuta ad Al-Khalil, Hebron, con 135 arrestati in un mese. Secondo l'ONG Ad-Damir, vi sono 53 bambini, 10 donne e 25 ex detenuti liberati in cambio del soldato Gilad Shalit, oltre al leader dell'attivismo nazionale, giornalisti ed attivisti per i diritti umani. L'avvocatessa per i diritti umani Hiba Masaleya riferisce che uno dei bambini palestinesi detenuti nelle carceri sioniste ha tentato il suicidio in seguito a una grave depressione causata dai maltrattamenti. Il bambino non ha mangiato e non si è alzato dal letto per 3 giorni. Il medico della prigione afferma che è affetto da gravi problemi psicologici. Attualmente sono circa 321 i bambini detenuti, di cui 30 ospedalizzati. Nella prossima trasmissione approfondiremo la questione dei prigionieri. L'80% degli abitanti di Gerusalemme Est vive sotto la soglia di povertà. A diramare questi dati è l'Associazione per i diritti civili in Israele, che ricorda che dall'annessione della parte est della città nel 67 le condizioni di vita dei palestinesi sono continuamente peggiorate. Scuole fatiscenti, ospedali senza fondi, infrastrutture viarie e fognarie inesistenti e il continuo esproprio della terra a vantaggio dei coloni ebrei sono solo alcune delle cause di questa situazione. I palestinesi costituiscono il 38% della popolazione della città e solo quest'anno a 116 di loro è stata revocata la residenza. Si stima che in 46 anni ne siano stati espulsi più di 14.000. Ieri 8 maggio un gruppo di coloni guidati da esponenti del Likud e scortati dai soldati ha assaltato la spianata delle moschee a Gerusalemme. Immediata la reazione palestinese che ha portato a ore di scontri contro la polizia. Gli estremisti ebrei rivendicano come loro il secondo sito santo dell'Islam, che dicono essere la sede del Tempio di Erode, e da tempo chiedono la demolizione della moschea di Al-Aqsa. Il sindaco di Gerusalemme, Nir Barakat, ha dichiarato che i palestinesi non eserciteranno mai la sovranità sulla città, ammettendo l'esclusivo dominio ebraico. Cornice della dichiarazione è stata la festa della riunificazione del Jerusalem Day, durante la quale gli israeliani celebrano l'occupazione della città nel 67. Alla festa razzista ha partecipato anche Noah, la nota cantante pacifinta. E passiamo alla striscia di Gaza, dove i comitati contro l'assedio rendono noto che le chiusure dei valichi decise dall'entità sionista hanno fatto perdere oltre 100 milioni al settore privato. Le perdite in questione prescindono da quelle accumulate in 6 anni di assedio. La chiusura dei valichi è un atto illegale che rappresenta una forma di punizione collettiva e l'assedio contro Gaza finirà solo quando verranno tutti riaperti all'importazione e all'esportazione di tutti i tipi di merci e quando sarà riaperto il corridoio sicuro tra Gaza e la West Bank. La radio dell'esercito israeliano afferma che il primo ministro sionista Netanyahu ha ordinato il blocco degli appalti per la costruzione di nuove abitazioni nelle colonie illegali. La decisione è stata comunicata alcuni giorni fa al ministro delle abitazioni, un noto colono del partito d'estrema destra Focolare Ebraico. Non c'è stato notificato nessun cambiamento nei piani coloniali di Israele nello stato occupato di Palestina, riferisce il negoziatore dell'OLP Saeb Erekat. Intanto, mercoledì 8 gennaio, l'esercito ha consegnato una sua vecchia base vicino a Betlemme ad un gruppo di coloni illegali. La grande maggioranza delle fazioni palestinesi ha rifiutato il piano della Lega Araba che intendeva risolvere il problema delle colonie con degli scambi territoriali tra entità sionista ed autorità palestinese. A dirsi contrarie, oltre ad Hamas e al Jihad Islamico, anche fazioni ed esponenti dell'OLP, come il Fronte Popolare ed il Fronte Democratico per la Liberazione della Palestina. E passiamo agli esteri. Il gruppo di lavoro per i profughi palestinesi in Siria rende noto che dall'inizio della rivoluzione sono morti più di 1.267 palestinesi, mentre altri 235.000 sono stati costretti alla fuga. Particolarmente cruenti sono stati i bombardamenti dei campi profughi condotti dall'esercito del dittatore batista Bashar al-Assad. E passiamo agli Stati Uniti con Stephen Hawking, noto astrofisico statunitense, che sostiene il boicottaggio accademico dell'entità sionista. L'ex professore 71enne era stato invitato alla conferenza presidenziale di Shimon Peres, un evento internazionale che quest'anno attrarrà oltre 5.000 partecipanti. Hawking ha annunciato la sua decisione indipendente di rispettare il boicottaggio, basandosi sulla sua conoscenza della Palestina e sui consigli ricevuti dai suoi contatti accademici in loco. Hawking è l'ennesima celebrità a rifiutare l'apartheid, dopo Elvis Costello, Roger Waters, Brian Eno e Annie Lennox. E passiamo in Italia, dove il Bar Basso di Milano rimuove i prodotti della Soda Stream dal suo locale. Lo storico locale di Milano era protagonista infatti di uno degli eventi del Fuori Salone per fare pubblicità a Soda Stream. In seguito alla campagna di informazione dei militanti di BDS Milano, il proprietario ha dapprima telefonato alla gente che gli aveva proposto l'evento, esponendogli la situazione in cui si trovava e manifestando il suo risentimento per non essere stato messo al corrente della campagna di boicottaggio. Infine, ha deciso, pur andando in perdita, di annullare l'evento a partire dalla mattina seguente. Il successivo sopralluogo del BDS Milano nel bar ha confermato il ritiro dei macchinari Soda Stream in esposizione e la cancellazione dell'evento. E passiamo alle iniziative a Roma, dove venerdì 10 aprile ci sarà il quinto appuntamento con Palestina per principianti, la rassegna di documentari organizzata dalla Rete Romana di Solidarietà con il popolo palestinese. Domani sarà la volta di Roadmap to Apartheid, in cui due registi esaminano le analogie tra l'apartheid sionista e quella sudafricana. Seguirà un dibattito con la rete BDS Roma. Lo spettacolo si svolgerà al Cineclub de Tour, in via Urbana 107, e inizierà alle 8:30. E invece martedì 15 aprile in piazza Santa Maria a San Lorenzo, dalle 18 a mezzanotte, la rete romana di solidarietà col popolo palestinese ricorderà il 65esimo anniversario della Nakba. La Nakba è la cacciata dei palestinesi dalle proprie terre nel 1948. Sarà un pomeriggio di dibattiti, spettacoli di danza popolare palestinese, la Dabka, e di teatro. E quindi chiudiamo oggi questa trasmissione con gli aggiornamenti con gli aggiornamenti locali e internazionali. Lasciamo un attimo una parola al compagno. Sì, no, volevo dire che martedì c'è stata a Ciampino la prima di una serie di iniziative fatte da alcuni resistenti della Valle di Hebron, che a Ciampino hanno raccontato la loro vita, la loro storia. È stata una cosa estremamente emozionante, quindi se ci sentite dal resto d'Italia, e queste iniziative saranno poi ripetute in varie Italie, andate, perché vale veramente la pena sentire come vivono e come resistono i palestinesi oggi nella valle a sud di Hebron. Sì, per avere notizie su queste iniziative, che credo che siano pubblicizzate anche sul profilo Facebook di Assopace Palestina, che sta seguendo i compagni resistenti di Hebron, e lasciamo anche l'ultimo saluto. No, visto che è la prima trasmissione, ecco, io volevo dedicare questa trasmissione proprio ai prigionieri politici palestinesi, che oltre a vivere una condizione bestiale resistono e lottano anche dentro le carceri e nelle condizioni di detenzione amministrativa. Quindi abbiamo già accennato che dedicheremo a loro buona parte della prossima trasmissione. Un saluto a tutti e a tutti quanti, e ci vediamo, ci sentiamo per giovedì 23 maggio. Sì, mi associo ai saluti. Vi ricordiamo che questa era Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento e analisi dalla Palestina occupata, ospitata da Radio Default. Quindi i nostri contatti sono www.radiodefault.it, mentre il sito dell'Assemblea di Solidarietà col Popolo Palestinese dei Castelli Romani è castelliperlapalestina.noblogs.org. Quindi, come ha detto Sergio, ci rivedremo il giovedì 23 maggio, sempre alle 7:30, sempre su Radio Default, con una trasmissione interamente dedicata al continuare appunto gli approfondimenti storici, e più sull'attualità, a parte il nostro GR, anche un approfondimento sui prigionieri palestinesi. Quindi buona libertà a tutti e a tutti, sia in Palestina come in Italia. In attesa di abbattere tutte le galere, vi lasciamo con la nostra sigla finale, che è dedicata a un compagno italiano, ma anche palestinese, e quindi vi lasciamo con Vittorio Arrigoni, Una Dicum. Vittorio, ti sto chiamando. E alle 9:30 i pallaccioni di Rise Up. تكون إنسان أخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقامة على كل جدار بعقلي أخي أنت لم تمت أخي عشت بنصي أخي لن تختفي أخي لا يتخلد اسمك في غزتي أخي صاحب العرض وغربي فلسطين تبنتك واصل بسفن حرية مغطى برايت بعودتك مكون من جسد تتزوق طلقات تعداء السلام مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة ثورة تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحرة اخي جاوز الظالم من المدى ولن ينتهي الظلمة الا بوحدة الشعب بلا برجوع الارض ارضي تناديكم خدر المعادي بشد على الايادي الايادي مساعد محم الموت ونابض بالصوت ورافض السكوت وصاحبي عند الصوت ها اناديكم اشدوا اياديكم لستم ضعف اضعف هم معاديكم بس الارض كتب مقامه بغفله تمل خدر بلحظه خرجت دموع بلحظه الشموع تتخطى الوداع هو الابقى شدوا على أياديكم وأبوسوا الأرض